Ciao a tutte e tutti, questa è la quarta trasmissione di Ururu e sarà diversa dalle altre perché in tutte e tre le precedenti il filo conduttore era il tipo di musica abbinato principalmente ad un paese o ad un'area. Oggi invece la trasmissione ha per soggetto alcune tra le voci femminili più belle dell'Africa. Le donne ricoprono infatti un ruolo molto importante nel panorama africano. Sempre qui su Radio Wombat, web radio al momento. Vi ricordiamo il sito da cui potete scaricare i podcast, ma soprattutto ascoltare le trasmissioni in streaming. Il sito è wombat.noblogs.org. I social network, sia Twitter che Facebook, e cioè twitter.com/radiowombatfi, cioè Firenze, Facebook. .com/radio-wombat-firenze e infine l'indirizzo di posta elettronica per corrispondere con la radio sostanzialmente, che è posta wombat chiocciolainsiberia.net. Come già detto precedentemente, una puntata di Uru dedicata in particolare, anzi totalmente, alle musiche, ai suoni e alle voci femminili africane. Tant'è che iniziamo con una delle più famose, se non una delle, la più famosa cantante etiope, Gigi, che è chiaramente un nome d'arte, il nome reale è abbastanza difficile da pronunciare. Ci proviamo, Gigaiwe Shibabau, appunto il nome d'arte chiaramente, come detto precedentemente, Gigi è una delle più importanti compositrici e cantanti etiopi. Il pezzo che ci ascoltiamo è tratto dal suo primo LP, che si intitola semplicemente Gigi, il pezzo che ci ascoltiamo è Goodfellas. የተውኩትን ነገር ተመክሬ ተነግሬ ባገር ምን ጎትቶ መጣብኝ ያን ያረጀ ያኔ ድሮ ፍቅር ጉድፈላ ዘንድሮ አቤት አቤት ማን አስተማረብኝ ማስቲካ ኩኛለሁ ከረሜላ ካፋሳደ ሲያውረገርግ አይኑ ገዳይ ጥርሱ ገዳይ ስንቴ ልሙት በዚህ ጉዳይ ወይ ቁመና ወየው ዛና ሰው እንዳለ አይበላ አለለካ የሰው ሀረግ ደረት ክንዶ ባለማረግ ባለማረግ ባለማረግ ባለማረግ ትንፋሹ በልጦ የሚደመጥ ምን ሙዚቃ አለኝ በእጁ ቢነካካኝ ድምፃ ወጣ እኔም እንደ ጊታር ጉዳረገኝ መውደድ ጉዳረገኝ የዚህ ሰው ፍቅር አቤት ስንቷን ቆንጆ አፍዝዝሃል የሴት ሁሉ ቀል ማረፊያ ክንፍ አለ ወይ ማንሳፈፊያ እንዴት ብዬ ላወዳድር ከዚህ ሁሉ ኮ ሳሳ ይጠይቁኝ ምንገራቸው ጀግንነት ግን የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ ዘሃል ስንቷን ቆንጆ አፍስዛል ሴቱን ቀማረፊያ ክንፋለን ወይ ማንሳፈፊያ እንዴት ብዬ ላወዳድር ከዚህ ሁሉ ኮሳሳ ይጠይቁኝ እንገራቸው ጀግንነት ክን የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ ሲንጎራደድ ያንን ሽንቱን ሲያውረገርግ አይኑ ገዳይ ጥርሱ ገዳይ ስንቴ ልሙት በዚህ ጉዳይ በቁመና ወየው ዛላ ሰው እንደል አይበላ አለለካ የሰው ሀረግ ደረት ክንዱ ባለማረግ Facciamo un riassunto delle iniziative che ci sono in questi giorni. Allora, stasera al CSA Ernest Emerson c'è un concerto dei Nuovi Rumori, mentre domani, sia domani che il prossimo venerdì, ci sono due iniziative con Benefit Wombat, quindi mi raccomando. Domani c'è una serata reggae, sempre al CSA Ernest Emerson, suoneranno Romola Sound System, Jazz Station, Rama Bass, più IMI, Rootser Sound. Venerdì prossimo, invece, sempre all'Emerson, dalle 19.30 ci sarà una cena, più la presentazione di Scarceranda, a cura di Radio Onda Rossa. A seguire concerto dei NEM, anche questa iniziativa sarà a Benefit Radio Wombat. Da segnalare sempre domani, a proposito di iniziative, una un po' più piccola, però ci sarà uno speciale, sempre su Radio Wombat chiaramente, condotto, portato avanti da uno delle fosse che parteciperanno successivamente alla serata Benefit per Radio Wombat, ripetiamo qui al CSA Ernest Emerson. Il prossimo pezzo è un pezzo di Busim Longo e niente, per me è uno... È uno dei pezzi più belli che abbia mai ascoltato, diciamo, da parte di una cantante africana. La particolarità è che questo pezzo si trova esclusivamente su un LP, anzi su un CD che si intitola Only the Poor Man Feel It, che è una raccolta di pezzi di cantautori e cantanti dell'Africa del Sud, in particolare dello Zimbabwe e del Sudafrica, e appunto Only the Poor Man Feel It, solo i poveracci possono sentirlo, è appunto una raccolta di pezzi cantati da autori che provengono per lo più dalle township sia dello Zimbabwe che del Sudafrica. In questo caso appunto Busim Longo, che abitava, anzi perché ci ha lasciato un po' di tempo fa, che abitava in una delle township che circondano Durban. È una cantante famosa per essere riuscita a fondere tutta una serie di musiche tradizionali sudafricane, in particolare quelle Zulu, e a fonderle e a metterle insieme, diciamo, con musica, diciamo, contemporanea, in particolare quelle jazziste, diciamo, con sonorità jazziste, ma anche funk, rock, gospel, rap, opera, eccetera, eccetera. Viene considerata, diciamo, l'ambasciatrice di un particolare tipo di musica che si chiamano Maskanda, e che appunto ha influenzato pesantemente, diciamo, tutta una serie di cantanti e di cantautrici sudafricane si sono succedute nel tempo. Era anche una sangoma, Busim Longo. Sangoma in Sudafrica sono le guaritrici, quelle che utilizzano la medicina tradizionale per curare appunto le malattie, ma sostanzialmente proprio perché mentre uno cura le malattie parla con il paziente, i sangoma sono anche quelli diciamo sono la memoria orale di tutta una serie di soggettività e di popoli, di tribù che diciamo non hanno la lingua scritta, un po' diciamo come i griot in Senegal. Il pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Isinzingua, appunto Busim Longo. Thank you. fresh air. Send me a ham. Bueno, mami. Send me a ham. Oh, oh, me a ham. Y pegando a fresh air. Thank you. dare un consiglio, volevamo dire di vedere questo film, forse ne avete sentito nominare perché ha vinto l'Oscar come miglior film straniero nel 2005, e cioè Tozzi, scritto T-S-O-T-S-I. È un film ambientato a Soweto, la famosa township di Johannesburg, girato con attori non professionisti. Tozzi in slang delle township significa gangster, bandito, ed è la storia di un ragazzo, ma soprattutto è la storia di violenza e redenzione, e soprattutto sulle conseguenze della violenza nelle proprie azioni. La colonna sonora è fantastica, quindi mi raccomando, se non sapete cosa fare, vedetevelo, è Tozzi, T-S-O-T-S-I. Il prossimo pezzo è anche questo di una tra le più famose cantanti africane. In questo caso si tratta di una cantante maliana, quindi come già successo precedentemente, torniamo in Mali. È una cantante nata e vissuta a Bamako, la capitale del Mali, ed è l'interprete principale del genere Wosulu, che si basa su antiche tradizioni africane. Ha iniziato a cantare già da 18 anni, andando direttamente in tour in Europa e nei Caraibi, un gruppo folk maliano, e a 21 anni ha inciso il suo primo album, che si intitola Mosulu, che vuol dire donne. E infatti Oumou Sangaré, che è l'autrice, la cantante del prossimo pezzo, è una persona che da sempre si batte per i diritti delle donne, in particolare contro i matrimoni combinati e la poligamia, che ancora in Mali sono profondamente radicati nella cultura popolare. E quindi lei sta portando avanti, non solo nelle sue canzoni, diciamo, ma direttamente sul campo, Questa battaglia contro i matrimoni combinati e la poligamia. E appunto il suo primo pezzo, mi ha detto precedentemente, si intitola Mosulu, che vuol dire donne. Da questo suo primo lavoro, il suo primo CD o LP, a seconda di come è stato inciso, insomma. Di questo album ci sentiamo Dugu Kamelemba. Amadu abarika kanumawi, wika lolo ini uradalela. la mali deni ni urada lela sangare ko no bai fulala kanene kanene kanene jinya pepe mo balu se te muso ye kanene kanene kanilai ko bele bai mo dena kanene kanene kanilai na wala ye ala le koma marala lu ala le dure nu e ka cha bai ka ya fanma tu ka mere mai ka ya fanma sabero ne kuma to cha balu ye ui ka cha mara ta muso fulala Pala ini nyene ka tuja muzo e Tebero ni nyene ka so muzo yo Mana ke ni meta pina manyini Pala ini nyede wolo muzo e Kuru muzo si tebange muzo wa Mana ke abeta sabana furu Pala ini nyene ka tere muzo e Tebero muzo si tebere muzo wa Mana ke ni meta nani manyini Pala ini nyene ka para muzo e Tebero muzo si te muzo njini mbo Kaune kane kanti nya pepe mo balu se te muzo e so suoni e musica dall'Africa, sempre su Radio Wombat, web radio, e appunto vi diciamo spesso il sito wombat.noblogs.org, ma quello che non abbiamo, almeno durante la trasmissione di Uru, non vi abbiamo mai detto, è un po' diciamo come è organizzato il sito. Quindi voi quando digitate https://wombat.noblogs.org con più o meno difficoltà vi si aprirà la pagina della radio, in cui in altro ci sono i nomi delle a sua volta singole sottopagine, e cioè i podcast, lo streaming, le trasmissioni e i Wombat eventi, a cui ultimamente si è aggiunto anche la pagina del contest logo, perché appunto abbiamo lanciato diciamo un contest per avere un bellissimo logo per Radio Wombat, e appunto aprendo ognuna di queste pagine andrete direttamente, per quanto riguarda i podcast chiaramente, la possibilità di sentire la trasmissione in diretta, gli streaming, le trasmissioni, gli eventi e via dicendo. Sulla sinistra invece ci trovate, oltre che la figurina del Wombat, l'animaletto da noi chiaramente a questo punto preferito, sulla sinistra appunto c'è chi siamo, e c'è quindi una piccola panoramica, un piccolo riassunto di quello che si vuole proporre Radio Wombat, i contatti, il contest logo sempre, il link, il palinsesto e lo streaming. In particolare nel palinsesto sono elencate tutte le trasmissioni che sono con i rispettivi orari che vengono trasmesse appunto da Radio Wombat. I podcast invece, ritornando sulla stringa in alto, la prima sottopagina diciamo, che a sua volta è ridivisa in tutte le trasmissioni che vengono prodotte da Radio Wombat, che vengono diffuse da Radio Wombat, cioè 3000 siepi, 8 Hz, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'ultima, che è appunto Uhuru, che è la trasmissione che state ascoltando adesso. Cliccandoci sopra andate direttamente ai podcast delle trasmissioni precedenti, cioè la possibilità di riascoltare o direttamente oppure scaricandolo i podcast, appunto le registrazioni sostanzialmente delle puntate precedenti. Adesso sentiamo una cantante sudafricana, Findampia, è una cantante di afro jazz. La sua musica è un insieme di gospel, afropop e blues. Di lei ascoltiamo il brano Oxam. I can't leave. Che proviene dal Sudan, e cioè che uomini del servizio di sicurezza sudanese hanno arrestato nei giorni scorsi a Khartoum Mudawi Ibrahim Haddam, noto difensore dei diritti umani. L'attivista è stato prelevato insieme al suo artista all'università dove insegna, più tardi la sua casa è stata perquisita. È ignoto il luogo dove è stato incarcerato. Mudawi, che è stato vincitore di diversi premi internazionali per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, ha contribuito in modo significativo a far conoscere la drammatica situazione del Darfur. Per il suo impegno è stato più volte incarcerato, torturato e tenuto in isolamento per lunghi periodi. L'arresto di Mudawi si inquadra nella repressione preventiva delle dimostrazioni contro l'aumento dei prezzi, causato da misure per contrastare la crisi economica decise dal governo all'inizio di novembre. Finora sono stati incarcerati una quarantina di leader politici e attivisti della società civile, mentre una trentina di edizioni di giornali sono state sequestrate. Ma l'opposizione non si fa intimidire, ha infatti chiamato i sudanesi alla disobbedienza civile per il 19 dicembre. A chi interessa seguire le vicende del Sudan, ma non solo, può seguirle da un sito internet che sarebbe una radio, però sul sito ci sono articoli, interventi, eccetera, quindi è interessante non solo come radio ma anche come notizie, ed è www.dabangasudan.org. Il prossimo pezzo è cantato da una cantante che non basterebbe l'ora di trasmissione di Uru per inquadrarla, per descriverne la biografia, la discografia. Miriam Makeba, nota anche come Mama Africa, cantante sudafricana di jazz, è nota per il suo impegno politico contro il regime dell'apartheid, per essere stata anche delegata alle Nazioni Unite da parte del governo in esilio dell'Africa National Congress. Nata a Johannesburg, e anche nel caso di Miriam Makeba parliamo di Sangoma, tant'è che, come abbiamo accennato precedentemente riguardo Bizimlongo, sua madre appunto era una Sangoma d'etnia Swazi e il padre era uno Xhosa, una delle 12 tribù principali del Sudafrica. Ha iniziato a cantare prestissimo, prima un gruppo che si intitolava Manhattan Brothers, uno dei tanti gruppi che sostanzialmente si rifaceva a quelli che erano i primi pezzi, i primi esempi, diciamo, del soul americano, per poi quasi subito dopo fondare una propria band, gli Skylarks, che univa il jazz e la musica tradizionale africana. Successivamente cantò nel musical jazz sudafricano King Kong insieme a Ogyu Masekela, che divenne il suo primo marito, e cominciò a ottenere un notevole successo e quindi tanti tour all'estero. Durante uno di questi tour, diciamo, il viaggio all'estero si tradusse a un esilio imposto dal governo di Pretoria, dal regime dell'apartheid, fin dai primi anni 60. Solo e soltanto perché il regime stesso non poteva tollerare che una donna nera sudafricana, soprattutto nera e donna, fosse diventata il simbolo di un popolo oppresso. Resterà appunto lontana dal suo paese per ben 3 anni, una sofferenza enorme. Per lei era così legata alla sua terra, tant'è che uno dei suoi prezzi, lo sentiremo successivamente, parla proprio appunto di che il suo cuore giace lì, è lì in Africa. E ritornò soltanto molto tempo dopo, alcuni anni dopo la fine del regime dell'apartheid, dietro esplicito richiesta, invito da parte di Nelson Mandela. Una delle cose che ci piace ricordare di più di Miriam Makeba è che nel 68, proprio durante un periodo in cui in tutto il mondo sostanzialmente c'era diciamo, attivisti, momenti diciamo, di grossa impatto da un punto di vista del de combattere diciamo, non solo contro i regimi dell'apartheid ma contro i regimi in tutto il mondo e quindi anche negli Stati Uniti d'America. Miriam Makeba sposò l'attivista per i diritti civili Stokely Carmichael, per i diritti civili ma anche uno degli esponenti maggiori del Black Power e delle Black Panthers. Questa cosa generò una controversia negli Stati Uniti e non solo in Sudafrica ma anche negli Stati Uniti vennero, fu diciamo messo al bando e i suoi contratti discografici furono annullati. Avremo modo di riprendere non solo in questa trasmissione ma anche successivamente la biografia, l'attivismo politico di Miriam Makeba. Intanto ci ascoltiamo una delle sue canzoni, i pezzi più famosi, Pata Pata, Miriam Makeba. Sempre Radio Wombat, sempre Uru, una trasmissione che riguarda i suoni, la musica, ma anche un po' quello che succede in Africa e proprio per questo ci piace rimandare attraverso questa radio l'appello degli studenti marocchini uscito proprio ultimamente, nel quale si denunciano le misure repressive del governo marocchino nei loro confronti e si chiama una grande mobilitazione per il prossimo 25 dicembre. Questo è il testo. Il movimento studentesco marocchino all'interno delle università e delle istituzioni accademiche, ci sono circa 800.000 studenti in Marocco, il 48% dei quali sono donne, sta strenuamente lottando contro le politiche neoliberiste di austerity e di repressione, così come contro le alte rette universitarie che impediscono a migliaia di giovani provenienti da famiglie operaie di iscriversi all'università. Questo accade mentre lo Stato marocchino porta avanti le sue politiche di repressione contro le lotte studentesche, detenendo nelle prigioni gli studenti, decine dei quali sono compagni. Per questo motivo gli studenti sono incapaci di tenere le proprie manifestazioni sindacali, culturali e creative sotto la tutela del Sindacato Nazionale degli Studenti Marocchini. Per inciso, il Sindacato Nazionale degli Studenti Marocchini è un'associazione di studenti fondata il 28 dicembre 1956 e poi soppressa e dichiarata fuori legge a partire da luglio 1981. L'appello continua, inoltre, come parte del suo piano per proibire e limitare il diritto alla sindacalizzazione e alla democrazia all'interno delle università marocchine, il governo è vicino a confiscare al suddetto sindacato la sua principale sede, trasferendola sotto la giurisdizione del Ministero della Gioventù e dello Sport. Questo atto sta provocando un fortissimo senso di sdegno tra gli studenti in molte università marocchine, che denunciano questa ingiusta decisione come funzionale al restringimento delle libertà del loro sindacato. In risposta alle politiche antistudentesche e in vista delle celebrazioni del 60° anniversario del sopramenzionato sindacato, appunto il 25 dicembre, un grande numero di attivisti politici, incluso il movimento studentesco marocchino e militanti affiliati al sindacato, intendono marciare in massa il 25 dicembre 2016 a Rabat per protestare contro la decisione dello Stato di confiscare la loro sede principale e difendere il diritto a una libera, democratica, secolarista e idonea istruzione pubblica, così come condannare la repressione contro le libertà sindacali nelle università e domandare il rilascio degli studenti arrestati. Richiediamo supporto da parte dei movimenti studenteschi e dei sindacati in Italia per 1. Denunciare il tentativo del governo marocchino di confiscare la suddetta sede e alienarla a favore di uno dei dipartimenti governativi, incluso intentare una causa giudiziaria. 2. Sostenere la marcia nazionale si svolgerà il 25 dicembre 2016 in occasione del 60° anniversario del già ricordato sindacato. 3. Fornire supporto politico e materiale alla battaglia degli studenti marocchini, incluso inviare dichiarazioni che mostrano tale sostegno per la lotta contro le politiche di austerity, di repressione, antirepressive e di stampo neoliberista che puntano a privatizzare il sistema educativo. 4. Esigere da parte dello Stato marocchino, attraverso il Ministero degli Interni e le sue forze di sicurezza, un affievolimento del suo controllo e della sua flagrante interferenza non permette agli studenti di organizzare il loro sindacato, le loro attività politiche e di tenere il proprio congresso sotto la tutela dello storico sindacato studentesco. Il testo, tra l'altro, è stato pubblicato da Cortocircuito e sul sito di Cortocircuito si può anche firmare la petizione in rete andando a http://www.ipetition.com/petition/solidarity-with-the-moroccan-students-union. Ripeto, molto meglio, nel caso si volesse anche firmare la petizione, andare direttamente sul sito di Cortocircuito, www.cortocircuito.org, e appunto rileggersi l'appello ed eventualmente firmare la petizione. Adesso sentiremo un pezzo di una cantante congolese, Mbilia Bel. Le sue canzoni parlano spesso di donne abbandonate dal compagno, vittime di violenza coniugale, eccetera. Donne che a un certo punto si ritrovano sole e che lottano per una vita dignitosa. Il brano che andiamo ad ascoltare è bellissimo, Mbilia Bel. Moto mokote koki kolobaka kokani na yo Yeme yawe akela ki moto na moto lo lenge na ye Lispis spécial Jean-Dominique Okemba. Feeling, feeling. Oye, utake paina yoye. Motindo na yoye kolo bilanga, je t'aime. Et ça la kanga tie. Na koki kobo sana ka mokiti dans ma vie. Yo za la kafre. Lumière première. Oh, éviter, oh, belle attention, qu'est-ce que n'a pas toi à l'olé moupé. bellissimo di Emilia Belle, ricordiamo i social della radio, il sito wombat.noblogs.org, Twitter che è Radio Wombat Fi, su Facebook cercate Radio Wombat Firenze, la posta è posta wombat, tutto attaccato, @insiberia.net. Ricordiamo anche i prossimi eventi, le prossime iniziative, domani alle 19.30 in Santo Spirito, un'iniziativa di protesta contro lo sgombero della Palazzina dell'Indiana avvenuta mercoledì scorso, e sempre domani e anche venerdì prossimo l'iniziativa Benefit per Radio Wombat al CSA Next Emerson. In particolare domani una dance hall, una serata reggae con Romola Sound System, Jazz Station, Rama Bass e Immiruz Sound. Questo domani a partire circa dalle 22:30. Mentre invece venerdì prossimo, 23 dicembre, sempre Benefit per Radio Wombat, si inizia fin dalle 19 con la cena, successivamente la presentazione di Scarceranda, l'agenda contro il carcere prodotta ogni anno da Radio Data Rossa, appunto sarà uno degli autori di Scarceranda a presentare l'agenda. A seguire il concerto dei Nehem, che è sostanzialmente un new ensemble, diciamo, eretico musicale, nuovo ensemble eretico musicale, una big band, diciamo così, rumor jazz, o meglio jazz sostanzialmente, comunque dei bei suoni, non fatevi impressionare dal rumor jazz, ma è veramente una bella cosa da vedersi, con tanti musicisti sul palco che alternano pezzi loro, pezzi cover di pezzi conosciuti e improvvisazioni. Proprio per questo appunto la prossima puntata di Uru sarà un po' particolare, perché anche noi, diciamo, parteciperemo alla serata, e quindi l'appuntamento è sempre per la stessa ora, però con una trasmissione un po' particolare da questo punto di vista, un po' più musicale e meno parlata. Bellissimo di Emilia Belle era l'ultimo pezzo per oggi. Vi ricordiamo che è possibile riascoltare le trasmissioni di Uru, così come tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat, scaricando il podcast che, appunto, come detto precedentemente, lo potete trovare andando direttamente sul sito, cliccando su podcast, e poi via via scorrere i nomi di tutte le trasmissioni. L'ultima è Uru, e a breve, entro 2 o 3 giorni, sarà presente il podcast di questa trasmissione. I podcast delle altre 3 trasmissioni sono già presenti, li potete scaricare o riascoltare quando volete. Buonanotte a tutti e tutte.